Oggi due ospiti d'eccezione, addirittura oggi a girare la palla, quindi inevitabilmente si spazierà anche sull'attualità, quindi rimanete in ascolto. Whether you're hot dog, fat dog, or maga dog, right now I man have something to say. Puss and dog not the same look. Dog may get wet, but puss must get cut. Allora, come dicevamo, stiamo in attesa del nostro ospite che si è nuovamente riassentato prima di per un caffè, quindi questo è già un piccolo indizio per capire chi potrebbe essere. E quindi niente, gira la palla fra qualche minuto su Radio Default. Cioè il caffè dopo sicuramente un ammazza caffè, questo qua sarà. Whether you're hot dog, fat dog or maga dog, right now I man have something to say. It's a dog not the same look. Dog may get wet, but puss must get cold. anche Gigi Aldino ascolta Radio Folk. Anche noi da Gandolfo ascoltiamo Radio De Fuorenza. Quindi una piccola anteprima della trasmissione di oggi, una introduzione a quelle che saranno le storie che vi racconteremo quest'oggi. La prima riguarderà Ippig, un portiere squatter di Amburgo, che è stato un ottimo portiere del Sampoli, storia particolare sicuramente la sua, anche per il tipo di squadra in cui ha militato, ovviamente, di cui già abbiamo parlato, delle tipiche caratteristiche del Sampoli, magari oggi ve ne riaccenneremo, anche perché ci abbiamo avuto alcuni nostri amici che hanno fatto visita proprio qualche settimana fa su ad Amburgo al piccolo stadio dei Marroni, e per cui oggi vi racconteremo un po' di quali siano state le gesta un po' di questo portiere tutto particolare. E poi oggi invece magari avremo qualche altra info per quanto riguarda il calcio amatoriale, in particolar modo su quello che è successo in alcuni campi di calcio. Parliamo di terza categoria qui in Italia, molte sono le squadre che ormai nascono tramite l'azionariato popolare, anche grazie a tanti collettivi di migranti che si mettono insieme. Purtroppo non è sempre facile per loro riuscire a semplicemente a far girare la palla, a giocare al calcio, e quindi vi racconteremo anche che cosa purtroppo gli è capitato a questi nostri amici calciatori. Hi, Sarah. giro la bolla, colla giro, giro la bolla, giro la bolla, giro la bolla, colla giro, giro la bolla, giro la bolla, giro la bolla, colla giro, giro la bolla, falla gira. Va bene, allora a sto punto iniziamo questa puntata, visto che il nostro ospite tanto a minuti tornerà, anzi sta rientrando. E va bene, allora oggi vi parleremo, vi introduciamo praticamente oggi con la puntata con una lettura. La lettura chiaramente sarà dedicata a questo portiere tutto particolare del Sampoli, una storia tutta particolare la sua, quindi oggi vi racconteremo un po' quelle che sono state le sue gesta in qualche maniera, e praticamente inizieremo con una lettura che abbiamo preso da uno dei libri praticamente usciti ultimamente. Il libro praticamente è di un giornalista spagnolo, a minuti magari vi diremo pure chi è l'autore e la casa editrice, e comunque già ne ho parlato le puntate precedenti, e in questa introduzione lui ha parlato un po' di questo portiere, e quindi vi andiamo subito a leggere per farvi un po' capire di cosa parliamo oggi, questa sua introduzione del libro, e poi magari dopo uno stacco musicale vi racconteremo meglio un po' la cosa. Lo spirito di un guerriero non è interessato alla vittoria o alla sconfitta, lo spirito di un guerriero è interessato solo alla lotta e vive ogni lotta come se fosse l'ultima battaglia sulla terra. Chissà se a Carlos Castagneda, l'antropologo e scrittore, negli anni 70 influenzò una rigenerazione con il suo sogno di una controcultura possibile. Piaceva il calcio. Non era certo se fosse nato in Brasile o in Perù, né tantomeno sapeva la sua età esatta. Lui volle così. La sua opera si basa sul racconto degli insegnamenti di uno sciamano Yaqui chiamato Don Juan Matus, e che Castagneda diceva di aver incontrato in Arizona, dove l'indio stava cercando alcune piante. Insieme a lui finì nel deserto di Sonora per apprendere le arti mistiche dei nativi americani che popolavano la frontiera tra Messico e Stati Uniti. Tutto in lui fu ambiguità calcolata, sebbene assicurasse che ogni cosa da lui scritta era autobiografica, non si poteva mettere la mano sul fuoco su niente, nemmeno sul fatto che il famoso indio Don Juan esistesse davvero. Morì nel 1998 per un cancro al fegato, ma nessuno se ne accorse prima di 2 mesi. I suoi colleghi antropologi, si laureò all'Università della California e sotto il caldo sole di questo stato visse quasi tutta la sua vita, non lo presero mai sul serio, ma una legione di seguaci con la voglia di sperimentare le droghe e la meditazione trasformarono i suoi 10 libri in bestseller tradotti in 17 lingue. Nessuno sa, dicevamo, se Castagneda facesse il calcio, e forse non si rese mai conto di quanta influenza ebbe su una delle figure più straordinarie della storia di questo sport. A migliaia di chilometri dalla California, in un luogo molto più freddo e meno luminoso, il giovane Volker Ippig divorava la bibliografia di Carlos Castagneda. Gli anni 80 erano appena iniziati e il ragazzo, un gigante di 1,86 m, giocava in porta con il TSV Lensan, la squadra della sua città, 100 km a nord di Amburgo. Leggeva di guerrieri e battaglie e della necessità di seguire il cammino indicato dal cuore. Leggeva libri che lo invitavano a sperimentare sostanze sconosciute e a lavorare duramente. Parallelamente alla sua passione per la controcultura nasceva il suo impegno sociale. Nel frattempo andò a giocare con il Sampoli, il club povero di Amburgo, che lo ingaggiò per le giovanili quando aveva ancora 18 anni, anche se l'anno successivo era già il secondo portiere della prima squadra in terza divisione. E lì tutto acquista un senso. Volker Ippig, con la sua criniera bionda e scapigliata, cominciò a impegnarsi della cultura del movimento che stava inondando di vita questo quartiere portuale operaio di Amburgo, gli squatter. Viveva con loro e pensava come loro. Il quartiere era e continua a essere il quartiere rosso di Amburgo. All'inizio degli anni Ottanta vi si mescolavano prostitute, lavoratori, punk, attivisti di sinistra, tossici. E poi una squadra di calcio con la maglia marrone, il Sampoli, si trasformò nel centro di tutto. Se un tempo i tifosi che occupavano gli spalti erano poche centinaia, ora erano diventati una piccola moltitudine. Allo stadio si affollavano creste Morte, giacche di cuoio e bandiere di Che Guevara. Il quartiere era sempre più libertario, il club pure. Ogni cosa veniva messa in dubbio, la bandiera pirata divenne il suo emblema e l'attenzione internazionale verso il fenomeno cominciò a crescere. Oggi il Sampoli continua a essere un simbolo mondiale della sinistra calcistica. Nessuno meglio di Volker Hippig, il portiere che andava all'allenamento in bicicletta o in autobus, simboleggiava tutto ciò che il Sampoli rappresentava. Scendeva in campo con il pugno alzato, i tifosi lo adoravano, la sua marcata conoscenza sociale lo trasformò in un modello per tutto il quartiere, non rinunciò mai a essere quello che era, nessuno glielo chiese. Al contrario, diventò il simbolo della più grande rivoluzione mai vista in uno stadio di calcio. Il tizio che indossava i guanti era il guardiano della porta e della rivolta. Fino ad allora il Sampoli non aveva mai avuto una tradizione di sinistra e negli anni 90 la politicizzazione della tifoseria cominciò a scemare un po' quando alcuni gruppi organizzati si mobilitarono in difesa di un cantante punk che era stato accusato di violenza sessuale. I casi di presidenti della società dichiaratamente progressisti sono pochi, si è sempre trattato di un fenomeno esclusivo dei tifosi, ma nel 2002 al vertice del club arrivò Corny Littman che ci sarebbe rimasto fino al 2010. Littman, regista teatrale, omosessuale, uomo di cultura, si impegnò affinché il club riconquistasse il suo profilo più politico. Un profilo che, a dire il vero, non era stato del tutto snaturato dallo scorrere del tempo, soprattutto grazie alla maggioranza dei tifosi. Questi nel 1999 furono capaci di costringere la dirigenza a cambiare il nome dello stadio, che dal 1970 si chiamava Wilhelm Koch, come l'ex presidente del club, di cui si seppe che era stato membro del partito nazista e coinvolto nello spoglio di beni degli ebrei. Nel 2009 obbligarono la società a ritirare dallo stadio la pubblicità di una bevanda energetica chiamata Kaltemuschi, in italiano figa fredda. Il quartiere ha 27.000 abitanti e la capienza dello stadio Millerton è di 23.000 posti. Esistono 500 Sampoli Club in tutto il mondo e solo in Germania la sua base di simpatizzanti si stima intorno agli 11 milioni di persone. Ha un fenomeno globale e un simbolo della sinistra che include nei suoi principi ufficiali il rispetto di tutti i rapporti umani e l'obbligo del club di impegnarsi politicamente e socialmente sul territorio, idee che furono dibattute e votate in un congresso nel 2009. Il suo stadio si dichiara zona libera dal razzismo e dall'omofobia e può vantare la più grande percentuale di abbonati del calcio tedesco. Il Sampoli ha giocato in Bundesliga ma anche in terza divisione per periodi in cui l'affluenza media allo stadio oscillava intorno ai 13.000 spettatori mentre il resto delle squadre si fermava a poche centinaia. Ciò nonostante questo poderoso congegno di sinistra, che nel tempo è stato capace di stipulare accordi con una casa automobilistica per annunciare un modello esclusivo con il nome del club, o addirittura anche con una multinazionale dell'abbigliamento sportivo per produrre una linea di scarpette con i suoi colori e il suo stemma, impallidisce davanti comunque all'autenticità di Volker Hippig e alla rivoluzione che guida negli anni Ottanta. Hippig fu il portiere della squadra dal 1981 al 91, con alcune pause. Nell'83 abbandonò il calcio per lavorare un anno in un asilo per bambini disabili e costruì una capanna nel suo paese di 6.000 abitanti, Lensan, dove viveva nei fine settimana, mentre durante i giorni feriali dormiva nella comune di Hafenstrasse a Sampoli. Ero stanco di giocare a calcio e basta, spiega in un'intervista concessa nel 2005 per un libro sulla storia dei tifosi del club. Quando entravo nella mia camanda accennevo che per me rappresentava la prima TV esistente. Lì potevo scordarmi di tutto, racconta. In un'altra delle sue fasi lasciò il paese in cerca dell'utopia, si arruolò in una brigata di lavoro in Nicaragua. A 29 anni nel 91 un grave infortunio mise fine alla sua carriera. Aveva vestito 100 volte la maglia della sua unica squadra professionistica. A quel punto Hippig si allontanò dal resto del mondo, visse come un eremita, studiò il potere delle piante, si lasciò crescere la barba e i capelli e perse il contatto con l'umanità. Ho passato molto tempo meditando, ma mi sono isolato troppo e sono arrivato a smarire la concezione del mondo, dichiarava. Ma poi decise di tornare. Nel 99 eri di nuovo al Sampoli come allenatore dei portieri della prima squadra e tecnico delle giovanili. Alla conferenza stampa di presentazione mise in chiaro di avere l'intenzione di restituire al club la sua vecchia natura perduta. Il mio cuore batte a sinistra, i miei valori politici e sociali non sono cambiati e continuano ad essere gli stessi che animano il Sampoli, disse. Però tra incidenti e continui alti e bassi, questa nuova tappa durò appena 5 anni e Hippig arrivò anche a scontrarsi con la tifoseria per aver sostenuto pubblicamente il portiere Kaster Bellman nel suo desiderio di firmare per per gli arcinemici dell'Amburgo. Persino le vacche cambiano pascolo. Perché qualcuno del San Paoli non può giocare con l'Amburgo? Anch'io ero così testardo, ma questi miti dovrebbero dissolversi come bolle di sapone, dichiarò. I tifosi non gliel'hanno mai perdonato. Dopo essersene andato dal suo club per sempre, ha messo in piedi una scuola di portieri itinerante con dei metodi di allenamento particolari che includono originali tecniche di preparazione fisica e trattamenti omeopatici. È ancora fedele agli insegnamenti ascetici di Carlos Castagneda. Quando lo leggi ti senti leggero come una piuma e continua a essere un personaggio scomodo per il mondo professionistico. L'altra sua esperienza da allenatore dei portieri a Wolfsburg nel 2007 è stata curiosa. Fu chiamato dal cervellotico Felix Magath in persona, che allora sedeva sulla panchina del club della Bassa Sassonia. Ma visto che rifiutò di lavorare più di 3 giorni alla settimana e che il nuovo portiere incoraggiato dal club aveva deciso di portare con sé il proprio preparatore personale, nel gennaio del 2008 fu licenziato. In seguito allenò la squadra dilettantistica con cui aveva cominciato, il Lensan, e ottenne una promozione nella terza divisione tedesca. Vincere la partita decisiva fu per Ibig il momento più felice della mia vita. Le cose tra Volker Ipig e il calcio professionistico non riescono a funzionare, è logico, a tal punto che attualmente è ancora alla scuola di portieri, ma per aiutare la sua famiglia, una compagna e 2 figli, lavora al porto di Amburgo come un operaio qualsiasi. Inoltre nel 2006 si concesse anche un breve svago artistico, recitando una piccola parte in FC Venus, una commedia che parla dei componenti di una squadra di calcio che giocano la partita contro le loro mogli. Un tempo il San Paoli è stato un laboratorio in cui il calcio ha potuto ridefinire i suoi rapporti e le sue regole. È stato uno degli ultimi tentativi utopistici di cambiare il mondo del professionismo. Oggi rimane un club di sinistra con una tifoseria di sinistra, che però non è mai arrivato a essere quello che sognava il suo portiere campellone degli anni Ottanta. Tutto ciò che so lo devo al calcio, dice molto camusiamente Volker Ipig. Non sono mai stato l'ideologo che mi facevano sembrare, sono più libero pensatore, aggiunge. Con l'eterno disincanto di ogni utopista, di colui che non arriva mai a Itaca, definisce così il San Paoli di oggi. Millerntorn è un laboratorio all'aria aperta per il calcio tedesco e lo stretto rapporto venutosi a formare tra i giocatori e gli allenatori e i tifosi era già di per sé un fantastico successo. In quel momento era tutto reale. Oggi il San Paoli però, secondo lui, è qualcosa di artificiale e di orchestrato, forse rimane solo il mito e un mare di nebbia. Il San Paoli nel club... San Paoli non è il club che lui e un gruppo di punk anarchici provarono a costruire. Il calcio non sarà mai quello sognato da qualche utopista, soprattutto agli inizi degli anni Ottanta. Gli affari hanno travolto tutti e nel calcio professionistico essere un guerriero come insegna Castagneda serve a poco, al massimo per camminare da solo al di là della linea tracciata dal business. Ma Volker Ipig continua ad andare dritto per la sua strada, una strada che forse gira al largo del calcio come da quasi tutto il resto. L'uomo comune è legato ai suoi prossimi, mentre il guerriero ha bisogno solo di se stesso. Vabbè, visto che oggi abbiamo pure diversi ospiti, intanto prima di... vabbè, diciamo che questa era l'introduzione a un libro, parla più o meno della storia di Ipig, però pure del San Paoli, mette in evidenza luci e ombre, forse più luci che ombre, pure qualche tromba se parla. E vabbè, e niente, quindi adesso ritroviamo un attimo il titolo del libro da cui ha ripreso questa introduzione. Volevamo chiedere invece, ecco, che ne pensi te, carissimo ospite del appunto del San Paoli, lo conosci come squadra tra l'altro? sì, tra l'altro io insomma conosco abbastanza bene quella squadra, quella del Sampoli, perché ricordiamo che un gemellaggio era lontano 77, insomma degli anni un po' difficili, non so nemmeno se esisteva il Sampoli comunque. No, anni particolari, insomma, io ricordo, insomma, è quello che mi è stato raccontato nella mia infanzia, quel grande gemellaggio che ci fu tra il Sampoli e la squadra del quartiere della zona San Paolo d'Albano, che insomma, gemellaggio che tenutosi poi presso proprio lo stadio comunale d'Albano, con l'amichevole poi alla Bomboniera di Cecchina. E insomma ci fu questa amichevole tra il Sampoli e il San Paolo d'Albano, e niente, questo ecco potrebbe ancora dare pure più sostegno a quello che è l'antifascismo castellano, credo, penso. Ottimo contributo quindi su anche un pezzo di storia del calcio nostrano, presunto tale. E l'introduzione invece l'abbiamo presa dal libro Calciatori di Sinistra di Chiche Peinado, prefazione di Giorgio Porrà, da Socrates a Lucarelli quando la politica entra in campo, quindi ci stanno un po' diverse storie, l'avevamo già un po' raccontata sta storia. No, volevo chiedere se c'era pure Renzi, col team pure lui, Renzi no, perché lui ha giocato solo con la ruota della fortuna, questa gira la palla è un'altra cosa, quindi magari ecco. Tra l'altro, ecco, mentre sfogliavamo qualche nome, un compagno pure che ha giocato col Barcellona è Oleguer Presas, tra l'altro ha giocato pure nell'Ajax, è stato un grande calciatore, tra l'altro è un pochino più recente di Hippig, perché ha giocato nel 2000 praticamente nel Barcellona, ultimamente è stato anche visto e riconosciuto nelle ultime mobilitazioni con gli Indignados in Spagna, tra l'altro è stato a volte anche coinvolto in scontri di strada con la polizia in passato, quindi diciamo che Hippig non è stato l'unico, oggi diciamo ce ne stanno fortunatamente rinverdita anche da altri calciatori, l'impegno per non solo per i soldi come purtroppo spesso accade, ma anche impegni per questioni un pochino più importanti, tra l'altro proprio perché parliamo dei diritti e tutto, no? Cioè, Torosidis, perché Torosidis? No, perché insomma c'è tutta la situazione delle elezioni europee, io sapevo della lista dopo Amelia Roccapriora, se non sbaglio Torosidis è sceso in campo per l'Europa, insomma come paladino della nuova sinistra, non so se poi la vuoi commentare. Ovviamente oggi la puntata risente della presenza di un altro speaker di ben altre trasmissioni, quindi chiaramente gli argomenti si mischiano. Sì, effettivamente Torosidis è sceso in campo per l'Europa, bella sì, io a sto punto vedremo quello, ma diciamo che è un po' lo scontro Grecia-Germania, no? Fa più simpatia la Grecia che la Germania, no? Ma e là si fermiamo, com'è? L'Italia com'è? Stessa faccia, una faccia, una razza, ecco. E quindi vabbè, mo a parte tutto questo, no, magari che ne so, io invece sul Sampoli, prima di abbandonare la cosa del Sampoli, io volevo di pure magari intanto un aggiornamento sul Sampoli, perché magari ne parliamo poi alla fine, magari non vi diciamo come va uno dei club che ogni tanto vediamo, che magari ecco condividiamo pure, quando si dice che purtroppo a volte è diventato un po' un logo, e comunque c'è molto di merchandising anche nel Sampoli. Va bene, comunque la prossima partita che giocheranno sarà domani alle 13, giocheranno in casa con l'Ingolstadt, al momento le prestazioni della squadra non sono male, perché si trova al quarto posto della Serie B tedesca a 41 punti, praticamente a 7 punti dalla prima in classifica, che è il Colonia, per cui c'è buona possibilità che il prossimo anno i Marroni di Amburgo li rivedremo ricalcare i campi della Bundesliga, del calcio che conta. E, tra l'altro, magari ecco, sulla vicenda Sampoli volevo pure magari dirvi un'ultima cosa, magari prima, ma però vi lascio un pezzo musicale. No, un'ultima cosa praticamente sul Millerton Stadion. Comunque ultimamente i nostri amici hanno fatto visita alla curva del Sampoli e ci hanno raccontato che lo spirito è sempre quello giusto. Praticamente quando viene acquistato il biglietto del Sampoli, la società manda una mail a chi acquista il biglietto. Gli viene comunicato che è assolutamente invitato a non fare nessun tipo di coro omofobo, razzista o xenofobo all'interno dello stadio, altrimenti verrà immediatamente allontanato. Tra l'altro chi non si... giustamente, poi non si fanno cori contro la squadra avversaria se non invece a favore del Sampoli, quindi tutta la partita... si canta a favore della propria squadra, a sostegno dei propri beniamini e non altro, altrimenti c'è sempre scritto sulla nota della società che qualora invece qualcuno non rispettasse di queste buone norme di comportamento verrà assolutamente allontanato dalle gradinate e saranno in molti a farlo, perché lo spirito di chi segue questa squadra di ben altro avviso. Tra le altre cose vengono sempre invitati coloro che volessero assistere al Sampoli a evitare di indossare chiaramente marchi che sono riconducibili all'estrema destra, altrimenti neanche c'è la possibilità di entrare all'interno dello stadio. Questo tra l'altro vale anche per i tifosi avversari e quindi anche con le Hogan, perché lo sappiamo, e tra l'altro le Hogan vengono portate dalla Digos qua in Italia come il borsello, e quindi sì, lo so. E a questo punto la nostra pagina sul Sampoli, tra l'altro, ecco la cosa interessante, io Fabietto ti vorrei un attimino rinvitare, visto che vedo che le buone maniere alla Ippig le hai subito capite. No, ti volevo dire, no, la cosa interessante però del Sampoli, velocissimamente poi chiudiamo quest'ultima pagina, ma a me pare che è proprio un modo diverso di vivere il calcio, no? Quindi voglio dire, rispetto in Italia che ci stanno tentativi di questo tipo che però alla fine scimmiottano un po' quello che solitamente si fa, no? Anche nelle modalità di aggregazione dello stadio, della tifoseria, no? Molto simile a quello che fanno ben altre rive, ecco, come voglio dire. Invece mi pare il Sampoli sviluppa proprio una sua visione autonoma di come vive se il calcio, no? Per esempio pure le questioni legate all'omofobia, no? Mi sembrano un pochino più masticate, no? Rispetto a... che ne pensi te? Ma io alla fine penso che no, sicuramente la differenza c'è, insomma, bastano poche descrizioni per dirle e per evidenziarle, e però penso pure che magari è anche la storia che c'è dietro una squadra che poi porta a questi risultati, perché effettivamente poi ecco, a nascere nella squadra come quella del Sampoli è comunque già particolare di sé, e sicuramente ha avuto delle tradizioni, diciamo, più che poi al limite sono anche più vicine a quello che dovrebbe essere lo spirito dello sport, cioè comunque il famoso è solo un gioco, cioè è solo un gioco, è uno sport e così, quando poi comunque poi, cioè, questo non è che vuol dire tenere meno per i propri colori, insomma, mentre da noi purtroppo è più identitario alla fine, anzi si sviluppa proprio il concetto opposto, cioè è proprio il riconoscersi non riconoscendo gli altri, quindi è più facile sentire un coro contro l'altra squadra che sostenere la propria. Ma a questo poi forse è proprio un modo di fare che il calcio in generale ha generato, e poi alla fine il Sampdoria, che è un'eccezione ed è una felice eccezione, e insomma ne vorremmo di più, vorremmo che diventasse regola, ma insomma difficile, ma si vedrà. Certo, in Italia è un po' più strano da vedere, anche perché insomma poi penso che ultimamente almeno si è un po' depoliticizzata quella che è la tifoseria italiana, magari si è sviluppato più un discorso proprio ultras come identità, cioè non più tanto legato a delle vicende politiche, ma più semplicemente che forse rende ancora più rozza tutta questa situazione, cioè i colori della propria squadra e andare contro tutto il resto, insomma. Giusto, Fabietto. Poi tra l'altro mo, ecco, cambiamo argomento, visto, giriamo pagina dal Sampoli, passiamo a un altro argomento che mi hai segnalato te, visto che facevi riferimento alle vicende pure legate alle tifoserie e robe varie. Proprio oggi abbiamo notato che il grande quotidiano nazionale di Repubblica ha pubblicato una fantastica inchiesta praticamente sulle curve e il pericolo che ne deriverebbe praticamente. Vediamo un attimo se nel mente riusciamo a ritrovarvelo, perché magari ne volevamo pure commentare alcuni contenuti. Eccolo qua: l'internazionale degli ultra, svelati da un rapporto della polizia tutti i collegamenti politici tra le tifoserie europee. Praticamente, tra l'altro c'è il solito Carlo Bonini, amico delle guardie, che prima fa ACAB e robe varie, poi in realtà sappiamo bene che è molto addentro ai fatti e alle veline della questura. E qua praticamente, come al solito, si usa un altro titolo sensazionale, si criminalizza praticamente una passione. Ma al di là di questo, al di là di alcune problematiche che magari sicuramente non vogliamo negare, però mi sembra che ancora una volta viene, no, si parla dei collegamenti tra vari gruppi praticamente per stranieri e via discorrendo. Mi sembra ogni volta la storia, scusate, c'è scomparsa praticamente la schermata dell'inchiesta, non so come chiudere la cosa, dato che qua e niente, è scomparso. Va bene, mo ritroveremo, ce la faremo prima o poi. Ecco qua, ricomparso. Vabbè, allora qua viene parlato praticamente dei grandi contatti Lazio col Chelsea, Lazio e Real Madrid vedono le partite insieme. Allora, io sinceramente penso che è una grande stupidata sta roba, no? A parte che viene fatta come presentazione del Lucigos praticamente, quindi i servizi segreti che monitorerebbero, no? Parlano di fascisti e comunisti e varie aree di riferimento, quindi quell'amico di quell'altro. A parte che amicizie tra curve anche di diverse nazionalità non è una cosa nuova, quindi non hanno scoperto nulla di nuovo. Il punto, no vabbè, pure Triestina, Monza, da ridere praticamente la scheda. Vi invitiamo a vedere questa scheda praticamente ignobile, immaginando che qualcuno ci sia messo a lavorare praticamente a sta roba, francamente mi fa un po' ridere. Quindi vabbè, e qua parlano di settimane di informative di Adigos. Ora, visto che sta roba a noi in buona parte ci interessa pure per capire un po', no? Ecco, proselitismo in curva, lo stagno avvelenato, quindi questo è tutto un po' sta roba. L'internazionale, a me pare che con questo tipo di messaggio, come al solito, si cerca di mettere paura alle persone e si cerca di creare un problema, magari in alcuni casi per distogliere l'attenzione. C'è anche, secondo me, pure una voglia, perché secondo me poi nell'ultimo tempo alcune problematiche presenti allo stadio in realtà si stanno riversando un pochino di più in ben altri ambiti, e forse questa è la cosa che allarma di più. E magari invece qualcuno rivorrebbe che forse il problema ritorni all'interno dei cosiddette curve da stadio, praticamente, dove l'aggregato, come diceva giustamente prima Fabietto, magari è più legata ad altro tipo di identità che non quelle magari come quelle del San Poli, no? Appunto, che sono di ben altra, di ben altro orientamento. A me mi pare che, a me pare anzi, che qua si parla ancora una volta di acqua a Paola, come si direbbe, ma te che ne pensi invece? Anche un parere del nostro ammazza caffè opinionista di riferimento, cioè stiamo al solito sensazionalismo, sindrome di handicap, ecco, invitiamo magari a leggere la sindrome di handicap che forse spiegherebbe meglio la cosa. Beh, penso che alla fine questi qua di articoli non fanno altro che, come al solito, fomentare in realtà la parte che insomma che viene additata e costruire una sintomatica rete, fantomatica rete di fatta di tifosi che si muove per l'Europa con il calcio, insomma, mi pare una cosa un po' strana. E sinceramente, insomma, del calcio vedo ben altri tipi di problemi e non quelli delle tifoserie, nel senso, poi è ovvio che esistono, nel senso, determinati problemi, ma insomma metterli sulla politica mi sembra un po', come direbbe anche, come usa dire spesso il nuovo presidente del consiglio, un po' anacronistica come cosa, perché mi sembra che ci sia un po' terminata quella fase lì del calcio che alla fine, pure in altri articoli si legge, insomma, sia stata più forte negli anni 90 e sicuramente più presente tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, ma adesso mi sembrano diverse le tipologie di problemi, tant'è che, insomma, poi quello che doveva essere uno strumento per regolare il flusso di persone allo stadio è diventata l'arma in più di queste persone. Sto parlando della tessera degli ultra, insomma, quindi dell'ultra, del tifoso, quindi, insomma, non è che la legislazione a livello nazionale stia aiutando portando alla soluzione di questo, che comunque poi è anche un problema sociale. Ma dato che poi in Europa parlano di Eurogen 4, allora probabilmente, no, di polizia europea, no? Allora magari io credo che, no, un po' ammicchi pure a quella roba lì, no? Questo tipo di articolo, no? Perché, no, al primo acchito, la prima cosa che uno immaginerebbe, là bisognerebbe fare internazionale da Digos, da polizia, no? Che tra l'altro già c'è, ma magari rafforziamola, potrebbe venire fuori, no? Mi pare che ogni volta viene messo, quindi, per cercare un po' di limitare gli spazi di movimento delle persone, spesso e volentieri vengono utilizzati di volta in volta i mostri da sbatte in prima pagina, anche qua nel mondo del calcio purtroppo succede, e quindi mi pare che, insomma, ecco, niente di buono all'orizzonte probabilmente anche in Europa, fermo restando che comunque il problema del razzismo in una serie di gruppi dell'estrema destra, dall'altro, è un problema, l'abbiamo visto pure in altri ambiti, purtroppo penso all'Ucraina, però penso pure a un elemento in positivo che invece nelle rivolte arabe c'è stato. Comunque, vabbè, cambiamo argomento. Io invece oggi volevo pure parlare di una praticamente una storia di cronaca che c'è stata di qualche giorno fa, di 3-4 giorni fa praticamente, che un po' vorrei capire meglio, perché poi alla fine sta diventando un vero e proprio caso. Parliamo di calcio e razzismo, e allora andiamo un po' a capire quello di che cosa stiamo parlando praticamente. E andiamo al 13 marzo, prendiamo un articolo del 13 marzo, ci troviamo praticamente a Forlì, in Emilia Romagna, e la WISP, praticamente, che è una lega... È l'Unione Italiana degli Sport Popolari. Grazie Fabietto, che è preparatissimo su questo, ha sede a Bologna, quindi diciamo è la cosiddetta rete del calcio antirazzista italiano, e c'era una squadra composta da solo giocatori marocchini e si chiama il Casablanca, e il 13 di marzo di questo mese è uscita questa notizia: insulti razzisti al Casablanca, la WISP sospende il campionato. In questo modo dirigenti, tecnici e ufficiali di gara vogliono sottolineare l'impegno contro ogni forma di discriminazione. Intanto venerdì il sindaco riceverà in municipio una delegazione della squadra. Andiamo avanti con la lettura. Quindi la Lega Calcio WISP di Forlì Cesena ha deciso di sospendere temporaneamente il campionato dopo gli insulti razzisti che hanno raggiunto sabato i giocatori del Casablanca. Formazione composta da immigrati marocchini che da anni giocano nei tornei WISP. Una sospensione voluta da dirigenti, tecnici e vabbè, come avevamo detto prima, un po' da tutti. E poi c'è stata la solidarietà anche espressa dal sindaco di Forlì, che addirittura con tutta la giunta ha anche ricevuto poi quindi questa squadra. E i giocatori col presidente della Lega Calcio hanno detto che, che avrebbero portato diciamo poi al sindaco praticamente un piccolo dono, praticamente una maglia rappresentativa dei mondiali antirazzisti, che ricordiamo ogni anno vengono svolti tra l'Emilia Romagna e l'Umbria. E questa è stata un po' la storia che è venuta fuori. Dopodiché, dopo un po' di giorni, 4 giorni fa, diventa un caso, e vi leggiamo invece questi altri articoli che tra l'altro oggi sono venute fuori. Praticamente quest'altro è un articolo invece di qualche tempo fa: calcio e razzismo, il Casablanca invece ci ripensa. Domenica in campo a Forlì. I marocchini che si erano ritirati, sottolineerei il linguaggio che viene utilizzato, che si erano ritirati dopo gli insulti razzisti, decidono di tornare a giocare il dietrofront dopo un vertice in giunta a Forlì tra sindaco, giocatori e dirigenti WISP, quello a cui avevamo lasciato, no? E quindi prosegue questa storia un po' particolare, ve lo già preannunciamo. Allora, non ci ritireremo dal campionato WISP, restiamo in campo perché altrimenti sarebbe una sconfitta rispetto al razzismo. A parlare Youssef Lazizi, difensore del Casablanca, la squadra di marocchini che dopo aver ricevuto insulti razzisti aveva dichiarato di voler abbandonare il campionato WISP di Forlì Cesena, in cui gioca da anni. La decisione arriva al termine dell'incontro iniziato oggi alle 13 nella sala della giunta del comune di Forlì. Questo è un articolo, vi ricordiamo, del 14 marzo, quindi per darvi l'idea dei tempi. La WISP non ci sta, adesso il campionato WISP può riprendere, dice Vincenzo Manco, presidente nazionale dell'associazione, che per protestare contro il razzismo e solidarizzare con la squadra di immigrati aveva sospeso il torneo. Non bisogna abbassare la guardia contro il razzismo, non bisogna minimizzare su ciò che avviene in campo e negli spalti, questo vale dappertutto, in Serie A e nei tornei amatoriali come il nostro. Sport significa dignità, integrazione e rispetto, per questo può contribuire a cambiare e migliorare il nostro paese. Se diventa l'altro, l'WISP non ci sta, questa vicenda si chiude, ma se ne apre immediatamente un'altra. L'impegno per la cultura del rispetto riguarda tutti, in tutti i luoghi di incontro, dallo sport alla scuola al mondo del lavoro. Quindi sicuramente è una cosa assolutamente condivisibile. E così quindi la nuova partita praticamente ci sarà domenica, fissata alle 10:30 nel campo Buscherini di Forlì contro il Castelnuovo, e i giocatori indosseranno una maglietta con la scritta non al razzismo. E quindi fin qui sembra che la storia stia volgendo al meglio. E invece, colpo di scena, 23 ore fa, quindi recentissima, 20 marzo, Casablanca punito, il razzismo era una scusa. E il caso creato per coprire un illecito, il giudice sportivo dell'WISP ha sanzionato pesantemente il club composto da giocatori marocchini che aveva schierato sotto altro nome un giocatore che risultava squalificato. 0-3 a tavolino, 100 euro di multa e 5 punti di penalità in classifica. E così la WISP prima era per sospendere il campionato in solidarietà contro il razzismo, e poi invece bim, batosta, perché mancavano i requisiti praticamente, quindi c'era una squalifica, quindi in realtà hanno ciurlato nel manico, direbbero adesso, e quindi è proprio il giudice sportivo dell'UISP ha pesantemente sanzionato il Casablanca, partita contro il club Juventinità, pessimo nome, brutto nome, che sul campo i ragazzini marocchini avevano vinto 3-0, persa invece 0-3 a tavolino, 100 euro di multa, praticamente il massimo per gli amatori, quindi però pene esemplari. Tra l'altro vediamo qui nell'articolo, vediamo una bella foto di questa squadra con una maglietta no al razzismo, giustamente. E la commissione WISP quindi, dopo gli accertamenti, ha riconosciuto l'illecito sportivo condannando il Casablanca per violazione del principio di lealtà. Quindi poco leali sono stati sti ragazzi, eh? Si è dunque conclusa con la vittoria morale del club Juventinità, e la cosa non è che ci fa molto piacere. La querella è nata sui campi del calcio amatoriale forlivese, dove la squadra composta da immigrati marocchini del Casablanca aveva denunciato gli avversari per insulti e offese razziste. Una vicenda che ha tenuto banco a lungo, con il Casablanca che prima aveva detto di volersi ritirare dal torneo, scelta che aveva fatto per sospendere al WISP l'intero campionato, poi ci aveva ripensato per non darla vinta ai razzisti, questo l'abbiamo detto prima infatti. Premiato poi quindi pure in comune dal sindaco di Forlì, con la massima onorificenza cittadina, la furiosa protesta del club Juventinità, che in una lunga lettera dell'allenatore Gabriele Severi al sindaco Balzani aveva rigettato le accuse di razzismo, spiegando che il caso era montato per coprire un illecito sportivo del Casablanca. Il club di Forlì in Popoli si era poi rifiutato di scendere in campo nel weekend successivo, seguito per solidarietà da altre ben tre squadre del campionato WISP. Quanto ai singoli, sono stati squalificati per 2 anni Amin Eniabli, ovvero il giocatore squalificato che ha regolarmente giocato la partita per 1 anno, e Monir Zaratti, cioè il giocatore il cui cartellino è stato usato per coprire lo squalificato, e per 2 anni e mezzo Abderrahim Rauf, il dirigente addetto agli arbitri. Non è parente, no, Zaratti non è parente a quel Zaratti. No, smentiamo ogni riferimento a fatti o persone che vivono in questi nostri luoghi. No, qua ci si capisce più niente, mo. Io vorrei capire, no? Anche nella WISP forse c'è qualche problema, no? È un po' triste vedere trattato, no, il tema razzismo e calcio in questa maniera, no? Addirittura, no? Non vorremmo che addirittura poi venga fuori la solita storia dell'extracomunitario che frega. O sbaglio, Fabie? Beh, di sicuro, insomma, il giornale è quello della Gazzetta dello Sport, che insomma sappiamo bene come è schierata, anche probabilmente da un punto di vista economico, ma mi immagino che non sia proprio di posizioni progressiste, quindi voglio immaginare che pure culturalmente, insomma, non sia proprio tra le posizioni più avanzate. Sicuramente si può fare di una classica vicenda che testimonia in realtà solamente l'esasperazione che c'è dietro a una cosa che dovrebbe essere appunto semplicemente, soprattutto a livello amatoriale, uno sport. E invece anche là cerchiamo sempre di essere più furbi di tutti, e semplicemente è questo qua il discorso, è come al solito, però è il colore della pelle, è il nome sul passaporto che fa la differenza, e che appunto viene preso in considerazione per descrivere quello che è successo. Quindi anche in questo caso sarà la squadra di extracomunitari marocchini, ma noi sinceramente rifiutiamo questa che è una logica che tende sempre a creare delle differenze, e pensiamo semplicemente che dei furbi ne è pieno il mondo. I furbi hanno tutti i colori del mondo, infatti. E vabbè, invece noi, sempre per rimanere in tema, magari invece sicuramente noi solidarizziamo con i giocatori del Casablanca e con tutti coloro che sono vittime purtroppo sui campi di calcio del razzismo. Crediamo che non deve essere ammesso in alcun modo che uno sport popolare come il calcio venga infangato da episodi e da ululati di questo tipo. E proprio perché vogliamo rimanere praticamente sul tema, c'è una bella storia sempre di calcio, tra l'altro non è la prima volta, insomma sono molte fortunatamente le squadre di calcio di terza categoria che nascono composte da migranti. Una di queste ultime, visto che la vicenda di Rosarno è stata una vicenda molto particolare che ha riguardato per diversi giorni le cronache di tutta Italia, e gli immigrati di Rosarno hanno fondato pure loro una squadra di calcio, fortunatamente il Coa Bosco. Di giorno raccolgono le arance, alla sera giocano. In Calabria il riscatto passa dal calcio, grazie anche ad un'idea del parroco. Una volta tanto magari qualche pretigno fa qualcosa di dignitoso, basta che poi non guarda sotto le dolci, questo sicuramente, speriamo di no, comunque questa è una bella storia, sembrerebbe, non speriamo che anche qui poi non escano ben altri risvolti come quella purtroppo del Casablanca. E niente, vi leggiamo questo articolo a questo punto, è un articolo del gennaio 2014, noi tra l'altro e alcuni ragazzi di Rosarno li abbiamo conosciuti quando sono venuti qui a Roma, abbiamo pure partecipato ad un'iniziativa con SOS Rosarno, con le arance, e vediamo un po' qua che dice questo articolo. Il pallone era un passatempo fino a qualche mese fa, che riempiva il vuoto di quelle giornate in cui in campagna a Rosarno per loro non c'era lavoro. Quattro parleggi in compagnia in attesa di una nuova dura giornata a raccogliere agrumi, fino a quando un giorno di ottobre Kadim, Sar, Sheikh e Mbaye si sono ritrovati a giocare in una squadra vera, in campo col Coa Bosco. Per loro parte di quel popolo di migranti che allo scoccare dell'inverno si ritrova nella cittadina calabrese per la raccolta stagionale delle arance. La domenica è diventata un giorno speciale. In 20 a rotazione indossano la divisa del Coa Bosco e scendono in campo. Partita dopo partita ci hanno preso gusto e dentro quelle maglie hanno cominciato a sentirsi a casa. I guerrieri dell'altare. Integrazione passa anche da qui, dal Bosco di Rosarno, la frazione della cittadina calabrese dove tutto è cominciato, e con un acronimo COA che sta per Knights of the Altar, Cavalieri dell'Altare, nome di un gruppo di gospel composto da immigrati che come la squadra fa parte di Uniti contro le frontiere, progetto umanitario che include anche formazione e alfabetizzazione. I giocatori sono tutti immigrati africani stanziati a Rosarno e la squadra è regolarmente iscritta al campionato nazionale dilettanti, terza categoria. Un calcio al razzismo verrebbe da dire, ma qui si tratta piuttosto di un calcio alla miseria e all'isolamento. Meno silenzi, fatica, abusi e più urla, partecipazione, cuori impazziti dopo un gol. Il calcio si sa, scalda i cuori ed è così popolare che per questi ragazzi non è mai stato così semplice vedersi accettati e riconosciuti, sentirsi protagonisti per le vie del paese. Da ogni angolo d'Africa, vengono dal Senegal, dal Ghana, dalla Costa d'Avorio e dal Burkina Faso, e questa avventura per loro è una possibilità, una speranza che un giorno potrebbe portarli a lasciare gli agrumeti per trovare un lavoro vero. C'era questo desiderio nella mente di Don Roberto Meduri, parroco 37enne nella chiesetta di Sant'Antonio, quando ebbe l'idea della squadra e decise di cercare i fondi per metterla in piedi. Non è stato facile, ma ci ho creduto fin dall'inizio, perché gli aiuti come cibo o vestiti sono fine a se stessi per quanto utili, mentre questo progetto avrebbe fatto uscire fuori questi giovani, avvicinandoli alla società e aiutandoli a sentirsi cittadini, racconta Meduri a Lettera 43. Anche tra loro c'era scetticismo e un po' di paura, perché l'idea di esporsi troppo li faceva sentire vulnerabili. Oggi invece sono contenti e lo sono anch'io con loro. In parte si sono ripresi la loro dignità e si sentono orgogliosi quando la gente li saluta per strada. Senza la sensibilità di alcuni benefattori sicuramente il Coa Bosco non avrebbe visto praticamente luce, e sono stati molti praticamente coloro che hanno dato un contributo per fare in modo che la squadra si potesse iscrivere poi al campionato di terza categoria. L'unico tra i migranti ad aver avuto una vera esperienza nel calcio agonistico è il 26enne senegalese Kadim Seye, che nel suo paese ha anche collezionato qualche presenza con la nazionale Under 17 e ora è il capitano del COA, il punto di riferimento tecnico per tutti i suoi compagni. La maggior parte di loro giocava solo a livello amatoriale, a qualcuno mancavano anche i fondamentali, racconta Domenico Bagalà, studente di teologia e presidente della società. Pensa un po'. Per questo è un grande soddisfazione vedere questi risultati dopo 3 mesi di campionato. Dopo 8 giornate il COA ha infatti ben 11 punti, non tanti, ma che valgono bene il 5° posto in classifica e la lotta ancora aperta per i playoff. Non male per un gruppo di ragazzi non allenati, costretti a vivere in baracche che fino a poco tempo fa non vedevano altro che grumeti e sacchi di juta. E insomma, va bene, adesso ci credono e tutto quanto, addirittura qua la notizia è meno simpatica, perché sono stati invitati addirittura dalla Juventus Stadium, verranno addirittura ospiti di Pavel Nedved, vabbè, quindi ogni tanto qualcosa di dignitoso anche dai gobbi bianconeri, finalmente, io direi. E niente, quindi praticamente Cobosco, questa è un po', ecco, diciamo veramente un calcio al razzismo, un calcio alla miseria, e fortunatamente anche una bella storia, ma anche un modo pure diverso per venire fuori un po' da quel razzismo strisciante che per tanto tempo, insomma, a Rosarno si è respirato nelle giornate di qualche anno fa, mi pare erano 2 anni fa. Vabbè, peccato che c'è la chiesa dietro, questo ci dovrebbe far riflettere tutti quanti. E va bene, sicuramente il razzismo non è un problema totalmente risolto, però ecco, magari esperienze come queste aiutano a quantomeno ad arginarlo. E a vista l'ora, a questo punto sono niente poco di meno che le 18.04 minuti. Oggi questa puntata ha avuto quindi il piacere, l'onore, l'onere anche di avere ospite il nostro caro Fabio Toschi di L'Ammazza Caffè. Vuoi farci un saluto? Sì, ci vediamo agli ingressi 32 sotto alle gradinate. Sì, lo so, questo come si direbbe è il tormentone dell'anno, e non vi dico che cosa sta combinando questo nostro ragazzaccio qui in regia come al solito, e va bene, vi mandiamo la sigla finale di Gira la Palla e ci rivediamo. Io credo che prossimamente, insomma, ci stabiliremo sulla giornata del venerdì con la programmazione di Gira la Palla. Buon pomeriggio, un saluto a tutti. Giro la bolla, giro la bolla, giro la bolla, colla giro. Giro la bolla, giro la bolla, giro la bolla, colla giro. Giro la bolla, giro la bolla, giro la bolla, colla giro. Giro la bolla, giro la bolla, giro la bolla, colla giro. Giro la bolla. Falla gira! E Fabietto c'ha il borzello, sì, lo so.